Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti cari gastronauti e cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di una serie di argomenti. Cominciare dall'olio d'oliva extravergine. Ne parleremo? Perché dal 1 luglio entrerà in funzione un regolamento con una nuova etichettatura che finalmente, io dico finalmente, poi lo vedremo se così ne parleremo con i nostri ospiti, sarà possibile acquistare un olio dove c'è scritto italiano ed essere sicuri che quelle olive, che la molitura, che insomma tutto il procedimento, tutta la filiera è made in Italy. Io dico vedremo perché non si sa mai, sull'olio sicuramente ci sono stati e ci sono scandali continui, quindi sicuramente bisogna vedere anche cosa sarà fatto per controllare se ciò avvenga. Comunque, chi volesse intervenire su questo argomento, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Con chi ne cominciamo a parlare? Cominciamo a parlarne con Piero Gonnelli, che è un produttore di olio, nonché presidente di AIFO, che credo che sia l'associazione che raccoglie i frantoiani, quindi coloro che hanno un proprio frantoio, e anche con Claudio Lucchetta, che è responsabile sicurezza degli alimenti Adiconsum, che è l'associazione difesa consumatori e ambiente. Poi faremo interverrà anche, come ho detto prima, il ministro Luca Zaia e anche il colonnello Amoruso, vicecomandante dei NAS. Cominciamo a parlare allora con Claudio Lucchetta. Buongiorno Lucchetta. Buongiorno. Volevo chiedere se voi come Adiconsum siete contenti di questo regolamento, di questa modifica, e se finalmente voi pensate che l'olio italiano sarà garantito in questa maniera, il consumatore verrà garantito di quello che acquista. Ma vabbè, in Italia non è una novità, noi abbiamo già in vigore dall'ottobre del 2007 un decreto legge del Ministero delle Politiche Agricole che stabiliva più o meno la stessa cosa, cioè l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine delle olive. Anzi, era anche un po' più preciso perché stabiliva anche l'obbligo di indicare tutti i paesi da cui provengono le olive nel caso di miscela, cosa che invece il regolamento non fa, da questo punto di vista è un po' più generico. Lei quindi ritiene che sia meno restrittivo e meno garantista? Per quanto riguarda le miscele sì, c'è questo problema, perché tra l'altro il nostro decreto continua a valere per i produttori italiani, ma i prodotti che vengono dall'estero, per vincoli che abbiamo chiaramente con l'Unione Europea di mutuo riconoscimento, se sono prodotti legalmente in un altro paese possono entrare nel nostro, per cui un prodotto che viene dall'estero che è fatto con olive di diversa provenienza non avrà l'indicazione di tutte le provenienze delle diverse olive. Gonnelli, lei è della stessa opinione, quindi diciamo che abbiamo risolto ben poco ancora una volta su questo benedetto olio d'oliva extravergine. Eh sì, questo è un, diciamo, l'aspetto, il buco nero, se così lo vogliamo definire, di tutto questo meccanismo, ma io confido che il Ministero interverrà anche in questo settore, nella tracciabilità di tutti i prodotti che entreranno anche dall'estero, perché è fondamentale, cioè siamo di fronte a un momento storico per quanto riguarda questo settore e quindi dobbiamo cogliere l'opportunità di rifondarlo e risanarlo proprio dalle fondamenta. Ecco, ci sono alcuni radioascoltatori che già hanno mandato degli sms. C'è una radioascoltatrice che dice: dal 1 luglio in vendita ci sarà solo olio con la certificazione o com'è esattamente? Chiede. Lucchetta, vuole rispondere lei a questo sms? Chiaramente esiste sempre la possibilità di finire di smerciare l'olio che è già stato etichettato prima dell'entrata in vigore del regolamento, però considerando che i tempi di conservazione dell'olio non sono molto lunghi, nel giro di qualche mese sicuramente sarà completamente smaltito. Senta Gonnelli, ora non ricordo esattamente i limiti che vengono imposti dal regolamento, però ricordo ad esempio che anche il nostro decreto, quello che è stato in vigore, come dicevo, alla fine del 2007, prevedeva un tempo, che se non sbagliano, 18 mesi per lo smaltimento delle confezioni precedenti all'entrata in vigore. Ecco, ma assieme a questo, Gonnelli, saranno garantiti, poi lo chiederemo anche al Ministro, dei controlli? Sì, sicuramente ci saranno anche dei controlli, però noi chiediamo che siano incisivi e che vadano veramente a colpire dove c'è da controllare, ma in modo serio. Ecco, volevo chiedere sia a Gonnelli che a Lucchetta, ma in questi ultimi tempi, negli ultimi 6-7 mesi, diciamo che sono state scoperte molte frodi in proposito di olio italiano, di olio estero spacciato per italiano. Lucchetta, voi ne sapete qualcosa? Guardi, io non dico che per quanto so, anche dai dati pubblicati dai NAS, sì, sono cose che succedono, ma succedono anche cose un po' più gravi, perché c'è addirittura olio che non è olio d'oliva, spacciato per olio d'oliva, perché con olio di semi, un po' di clorofilla e qualche trucchetto si riesce a far passare per olio extravergine anche quello che non lo è, oppure si tratta a volte di prodotti sempre dell'oliva, ma oli di qualità più bassa, che vengono comunque rettificati e rimessi sul mercato come oli extravergine. Per cui, quando si tratta di etichette, l'etichetta è una bella cosa, ci dà tanta informazione, ci permette in qualche modo di tutelarci, ma come qualsiasi altra cosa ci può in qualche modo contraffare, quindi siamo, da questo punto di vista, stiamo sempre nelle mani di chi fa i controlli e speriamo che continuino a farlo con la stessa incisività con cui li stanno facendo ultimamente. Bene, sentiamo radioascoltatore, ricordo comunque il numero verde 800 24 00 24, Ciro da Reggio Emilia, buongiorno Ciro. Buongiorno a tutti. Spenga la radio perché sento un rimbombo, quindi spenga la radio per cortesia, sennò poi non si sente. Ecco, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io dico una cosa, io ci rimano sempre un po' di dubbio, perché credo, perché non lo so se dico una cosa com'è, siccome in Toscana e in Umbria ci sono delle società di olio, che non voglio fare nome, però il gruppo è spagnolo. Sì. Chi me lo dice a me se l'olio lo vanno a prendere all'estero e lo portano in Toscana dicendo che l'olio è italiano? Bene, questo sicuramente può essere un grosso problema. Diciamo subito che è vero, cioè oggi ormai l'olio italiano, diciamo, in larga parte è controllato da una grossa azienda spagnola, però che sembra in gravissima difficoltà. E quindi tutto è possibile, tutto può succedere, come diceva giustamente Lucchetta. La regolamentazione, un'etichettatura non è sufficiente. E quindi sicuramente può avvenire di tutto. Credo che questo debba essere rimandato ai controlli, che poi sentiremo poi quale tipologia di controlli ci sono. Sentiamo Carlo dalla provincia di Firenze, un altro radioascoltatore. Buongiorno Carlo. Sì, pronto. Allora, no, io stavo dicendo che l'olio, siccome anche nella stessa Italia abbiamo oli diversi, perché c'è l'olio ligure, l'olio toscano, l'olio pugliese e l'olio siciliano, non perché noi siamo toscani, ma nel centro della Toscana c'è un olio che è meno grasso, molto migliore di altri oli, quindi anche l'oli italiani avrebbero bisogno di essere etichettati proprio per la zona di origine. E poi quando si vende nei supermercati olio vergine a 3 euro o 2,80, bisognerebbe sapere che tipo di olio vergine è, o è vergine come certe signorine che si muovono a giro per l'Italia. Va bene, grazie Ciro, grazie Carlo. Gonnelli, ha sentito questo discorso, sì, di regionalizzazione dell'olio? Lei cosa ne pensa? Ma ci sono le DOP e le IGP? Esatto, ci sono le DOP e le IGP per chi vuole il prodotto garantito, certificato relativamente alla provenienza delle olive. Quindi questo mi sembra già una risposta sufficiente. È chiaro che poi bisogna garantire tutto il prodotto italiano, su questo non ci sono minimi dubbi, anche perché, come diceva il prima ascoltatore, ci sono ditte che con marchi italiani che vendono prodotto che è completamente spagnolo. E ora però, con questa nuova legge che entrerà in vigore il 1° di luglio, nell'arco di un po' di tempo si farà chiarezza, perché dovranno essere esaurite le bottiglie ancora in commercio, però dopo si farà chiarezza e quindi avremo il prodotto italiano certificato, e quindi i consumatori sapranno che se anche il nome è italiano, vedranno che non, e poi alla fine viene da un altro paese della comunità o anche al di fuori della comunità economica europea. Lei non è scettico come Lucchetta? Che l'etichetta sia... Guardi, io non sono scettico, perché ho notato che da parte del Ministero c'è la volontà veramente di cambiare le cose e fare bene. Questo mi fa sperare molto. Ma volevo dirle un'ultima cosa, anche un'altra cosa, che secondo me, abbiamo parlato di DOP e IGP, io credo che in Italia ce ne siano troppe proprio riguardo all'olio. In alcune province italiane veramente ce ne sono iosa. Lei non crede che sia un po' esagerato su questo? Ma guardi, l'Italia è un paese che ha una varietà infinita di prodotti, con una tipicità ben determinata, per cui non ritengo che siano troppi. Voglio ricordare che DOP e IGP non significano qualità assoluta, significano la certezza della provenienza, che sono due cose diverse. Poi sta al consumatore decidere quali DOP prendere. Certamente con la legge sull'olio italiano forse qualche DOP non avrà più ragione di esistere, può darsi. Bene, io la ringrazio. Ora abbiamo con noi il ministro Luca Zaia. Buongiorno ministro. Buongiorno a tutti. Senta, ministro, il responsabile dell'Adiconsum prima ha notato che il regolamento che va in funzione per l'olio d'oliva extravergine dal 1 luglio è meno restrittivo di quello che era già stato varato in Italia. Beh, direi proprio di no, finalmente si pone l'accento sul fatto che innanzitutto noi abbiamo vinto una battaglia in Unione Europea. Ricordo che questa battaglia è una battaglia tutta italiana che abbiamo chiuso in questi 12 mesi, che ci permette di dire che dal 1 di luglio c'è l'etichettatura obbligatoria per l'olio extravergine d'oliva. Per il consumatore significa avere una tracciabilità dall'olivo alla tavola. Questa è una rivoluzione copernicana per un comparto nel quale questo non è mai stato possibile. E quindi sicuramente ci saranno dei controlli ad hoc per garantire anche questo, immagino, perché ora che si è ottenuto qualcosa probabilmente bisogna anche difenderlo. Assolutamente sì, guardi, io sono ricordato per il ministro della tolleranza zero, nel senso che ho impiegato e sto impiegando i miei forestali, l'ispettorato controllo qualità, le capitanerie di porto, il nucleo di carabinieri e frodi comunitarie, e come dico sempre io simpaticamente, con delle priorità. La priorità non è quella di rincorrere magari i pensionati per i vigneti durante la raccolta dell'uva o nei frutteti, ma di occuparsi dei veri crimini, che sono quelli sul fronte della sicurezza alimentare e delle frodi in commercio. I produttori di olio d'oliva extravergine si lamentano sicuramente di un prezzo di mercato molto basso. Lei pensa che bloccando l'olio che arriva dall'estero, che tanto ci ha penalizzato, ci possa essere anche un domani migliore per questi piccoli produttori? Guardi, l'olio d'oliva, penso a quello pugliese, viene pagato malamente 2 euro il chilo. Questo lo dobbiamo dire ai tantissimi consumatori che stanno seguendo la sua trasmissione. E l'etichettatura permetterà comunque di far meno magie, definiamole così, perché comunque dai dati di importazione e esportazione del consumato si vede che sicuramente dell'olio cambia natura nel momento in cui entra nei territori italiani. Avere l'etichettatura ci aiuta di più nei controlli e a tutelare il consumatore. E un'altra cosa volevo chiederle questa: negli ultimi 4-5 mesi abbiamo visto così sulle cronache grandissimi scandali che riguardano il formaggio, riguardano riciclaggio appunto di formaggio putrefatto o d'altro. Ciò significa un appendice della crisi, oppure sicuramente diciamo che sui vari territori italiani veramente ancora c'è da fare molto per combattere questa criminalità alimentare? Direi che c'è una terza opzione, se mi permette, dottor Paolini, che è quella del fatto che noi facciamo i controlli. Io diffiderei sempre da chi dice che è tutto a posto. È come decidere di fare uno screening per una malattia su una popolazione. Chi fa lo screening sa quanti ammalati ha, chi non lo fa non può dire di avere tutta la popolazione sana. Quindi diffidiamo di quegli stati dove tutto va bene. Noi i controlli li facciamo e siamo gli unici che possono dire quelli che abbiamo sul mercato sono sani. Ecco, come si spiega che magari la maggior parte di questi controlli siano nel settore, diciamo, formaggi, nel settore dei caseifici? C'è qualcosa? Perdoni, non necessariamente, perché guardi, le potrei citare che nella operazione tolleranza zero noi abbiamo sequestrato 174 tonnellate di pesce dei mari asiatici venduto come pesce nostrano, 340 tonnellate di pomodoro San Marzano falso al porto di Napoli, latte alla melamina, 150.000 bottiglie di vino amarone al porto di Livorno, ovviamente tutta roba falsa, carne putrefatta con la collaborazione fra l'altro degli industriali della Valtellina, che vanno ringraziati, perché poi quella comunicazione che di un mese fa li ha fatti apparire come quelli che utilizzano carne putrefatta. Quella carne veniva dal Paraguay ed è una carne che loro hanno scoperto e ci hanno aiutato a sequestrare. Un'ultima cosa le voglio chiedere e la ringrazio per essere intervenuto. Cosa consiglia al consumatore oggi quando va a fare la spesa? Di controllare solo l'etichetta oppure di voler conoscere un po' tutta la filiera? Beh, innanzitutto di essere attore in questo grande film degli acquisti della vita, acquistare prodotti di stagione e prodotti del territorio, questo è possibile. Io sono ricordato come quello dello sciopero dell'ananas, non è che ce l'ho con l'ananas, ma dico che è un assurdo buttare via la nostra frutta per andare a comprare quella degli altri, tanto per fare un esempio. Quindi stagionalità, prodotti del territorio e credere anche nella filiera corta. Questo non vuole essere assolutamente una battaglia o una messa in discussione dei canali tradizionali di vendita. La grande distribuzione aiuta moltissimo l'agricoltura, il 70% del prodotto agricolo viene venduto tramite quei canali, però ogni tanto aiutare anche qualche contadino non fa male. Un'ultimissima cosa che mi viene mentre lei ha parlato di stagionalità: il tonno, la pesca del tonno è stata interrotta ovviamente per così regolamentazioni internazionali, e io credo che sul tonno bisognerebbe fare controlli ancora più accentuati da questo momento in poi, visto che appunto la pesca è stata bloccata. Lei cosa ne pensa? Beh, allora, relativamente al blocco della pesca, lei sa che io ho un pessimo rapporto col commissario europeo Borge, in quanto siamo ricorsi in Corte di Giustizia, perché l'Europa, se vuole bloccare la pesca del tonno, deve portare dati concreti e non quelli che sta portando per l'Italia, visto considerato poi che c'è stata una disparità di trattamento tra noi e gli spagnoli, e certo, i francesi sono della partita con noi. Dopo sono d'accordo con lei che comunque sul fronte della pesca bisogna controllare di più e puntare anche a dei progetti di mantenimento della risorsa ittica. Bene, io la ringrazio, Ministro, la ringrazio di essere intervenuto. A presto, la prossima volta, grazie. Bene, continuiamo a parlare appunto con i nostri radioascoltatori e sentiamo Biagio da Varese. Buongiorno, Biagio. Buongiorno. Allora, io premetto, ho sentito molto, con molto interesse tutto quanto, premetto, faccio un altro mestiere e in effetti è un mestiere particolare, quale quello del giornalista. E per diletto io produco olio. E mi scontro costantemente con una politica molto difficile da portare avanti, ovvero un cambio di leggi continuo, una difficoltà nel comprendere fino in fondo quelli che siano realmente le leggi per produrre piccole quantità di olio e soprattutto una difficoltà enorme nel capire realmente perché non venga supportato in qualche modo e nel modo migliore una produzione di olio fatta praticamente a mano e in Italia in tutti i modi. Mi sembra un po', visto che mi occupo di Formula 1, che si cambi regolamento, come si cambia regolamento ultimamente in questi ultimi anni in Formula 1, costantemente. Bene, io la ringrazio, Biagio, e chiedo a Piero Gonnelli, se ha ascoltato il suo intervento, di risponderle. Beh, sì, questo è vero. È anche vero che per il piccolo produttore è difficile poter commercializzare il prodotto perché i costi della commercializzazione sono molto alti, quindi a seconda appunto del livello in cui uno si trova forse conviene pensare a delle forme di aggregazione, perché altrimenti è veramente difficile. Io assisto continuamente a produttori che hanno 200-300 kg di olio che vorrebbero giustamente venderlo confezionato e portarlo in giro nei ristoranti, nei negozi o anche all'estero, ma è impensabile, è una cosa che difficile, certo, e beh, praticamente improponibile, come tutti i prodotti di nicchia italiano. Bene, sentiamo Zeno da Venezia. La ringrazio, Gonnelli, e ringrazio Lucchetta. Zeno da Venezia, un altro radioascoltatore. Buongiorno, Zeno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e vi ringrazio dell'opportunità. Da molto tempo io noto che quasi da sempre praticamente non c'è nessun tipo di indicazione, e mi dicono, da quanto io mi sia informato, che non c'è neanche l'obbligo di indicare in etichetta l'acidità dell'olio. Questo sarebbe molto opportuno per i produttori seri, perché va a tranquillizzare il consumatore che non porta a casa del veleno che è nocivo, come voi ben sapete, come sanno tutti gli esperti, e potrebbe favorire un consumo e una valorizzazione di quegli oli che effettivamente buoni, che sono genuini e che sono stati trattati bene sia per l'olio bene, che per l'olive. Per l'etichetta poi vedremo nel dettaglio dopo, diciamo, lo stop che faremo con la regia. Sentiamo Marco da Verona. Buongiorno, Marco. Sì, buongiorno a tutti. Io mi sto occupando da breve, cioè sono 3 mesi che stiamo mettendo a punto un gruppo di acquisto solidale anche a Verona, ce ne sono 27 oggi sul territorio della provincia di Verona. Volevo segnalare prima di tutto una relazione fatta da Lega Ambiente, che si trova tranquillamente su internet, cercando su Google, che si chiama Pesticidi nel piatto. E questa relazione riguarda proprio i residui dei prodotti chimici che rimangono dai trattamenti che naturalmente vengono fatti nell'agricoltura convenzionale. E è una relazione che fa parlare molto, cioè dovrebbe essere pubblicato sotto i giornali, purtroppo questo non avviene per una chiara questione di mercato. E poi voglio segnalare appunto questa fiducia che ripongo nei gruppi di acquisto solidale, si chiamano GAS. Bene. Che sono sempre più presenti in Italia e stanno facendo veramente la differenza. Sì, ne abbiamo parlato più volte. Io volevo ricordarle io una cosa, Marco, visto che lei rappresenta un gruppo solidale. Abbiamo fatto una trasmissione sui molti produttori aquilani o dei dintorni che diciamo hanno avuto gravi problemi per il terremoto. Io vi prego di mettervi in contatto anche con loro, ci sono dei bravissimi produttori, magari per dargli un aiuto e una mano. Sul discorso dei pesticidi, chissà, magari torneremo prossimamente. L'abbiamo fatto sugli additivi, lo faremo anche sui pesticidi. Il gastronauta. Continuiamo a parlare di olio, di nuovi regolamenti, parleremo anche poi di scandali che riguardano il cibo. Bene, e ricordo il numero verde anche 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Buongiorno a Marco Oreggia. Marco Oreggia è l'autore di una guida degli oli, un grandissimo degustatore, nonché anche ristoratore. Allora Marco, io voglio farti due domande. La prima di un radioascoltatore che prima ha detto praticamente c'è poca chiarezza nell'etichetta dell'olio che sono in commercio. Una seconda che mi arriva un sms e mi chiede: esistono sistemi empirici alla portata di noi profani per valutare la bontà dell'olio? Ma diciamo, per la prima aspettiamo perlomeno l'attuazione della nuova normativa, vedremo gli sviluppi ovviamente che avrà questa, se metterà veramente chiarezza sull'origine, in qualunque caso un minimo di informazioni in più. Sicuramente c'è molto da fare sul fronte dei controlli, sulle normative tecniche chimiche. Speriamo che appunto nel tempo si riesca a saturare questa difficoltà da parte del consumatore, giusta peraltro, nella chiarezza appunto dell'etichetta. Sulla seconda, un po' più complesso ovviamente, manco a dirlo, un approccio alla degustazione che è sicuramente un po' tecnico come elemento, ma sicuramente qualche consiglio mi sento anche di dirlo, consigli cosiddetti per l'acquisto, sicuramente acquistare bottiglie scure che già danno idea, per esempio, che c'è un produttore che tende a tutelare la qualità delle materie interne all'olio, quindi per capirci la vitamina E, alcune sostanze antiossidanti vengono tutelate perché l'olio è fotolabile e quindi tende a rovinarsi con la luce, per esempio tagli piccoli in qualunque caso perché il consumo è rapido, quindi quando si compra in latte per esempio è bene dividere in tante bottiglie per evitare l'ossidabilità per esempio dell'olio, che l'olio si irrancidisce grazie all'ossigeno, per colpa dell'ossigeno, e quindi è bene per esempio comprare tagli piccoli, per esempio comprare oli a certificazione, cioè a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. In Italia sono 38, c'è l'IGP toscano e altre 37 DOP in tutta Italia. Questi sono consigli che sicuramente avvicinano. Certo, se ci fosse un po' di competenza dal punto di vista degustativo, e quindi mi sento di consigliarle magari di testare invece di comprare magari volumi e poi trovarsi magari con un olio che non ha le caratteristiche idonee, imparare un pochino a assaggiare, a riconoscere le caratteristiche tipiche di vegetalità o freschezza a livello olfattivo e soprattutto le note amare e piccanti che devono esserci e sono sinonimo di alta qualità, di conservabilità dell'olio, ma soprattutto ci fanno capire che ci fa bene alla salute perché sono antiossidanti e nello stesso tempo che appunto fanno resistere l'olio più nel tempo, nel passaggio dell'anno. Quindi questi sono sicuramente dei consigli. Certo. Consigli per gli acquisti, giustamente. Bene, ma sono importanti. Sentiamo Maria dalla provincia di Terni, una radioascoltatrice. Buongiorno Maria. Buongiorno, io appunto, come diceva la signorina, sono una piccola produttrice perché noi abbiamo 500-600 alberi, quindi produciamo pochissimo olio, ma volevo dire una cosa, che i costi di produzione sono elevati, non possono scendere al di sotto di 8 euro, minimo 7 euro. Come si fa vendere nel negozio un olio extravergine di oliva a 2,50 euro, a 3 euro, e me lo devono spiegare che cosa c'è all'interno della bottiglia, perché è materialmente impossibile, non si può vendere un olio ad un prezzo così basso, forse bisogna istruire un po' i consumatori, certo, dire che noi non mettiamo anticrittogamici, non mettiamo nulla, il nostro olio è genuino, biologico al 100%, e quindi però abbiamo un po' di cose e abbiamo difficoltà a vendere quel poco che produciamo. Questa è la domanda. Bene, grazie Maria. Bene, abbiamo con noi il colonnello Antonio Amoruso, vicecomandante dei NAS, al quale io subito faccio i complimenti perché ultimamente veramente l'attività sembra frenetica di scoprire delle magagne che sono in questo paese. Buongiorno, buongiorno colonnello. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Senta colonnello, ha ascoltato questa Maria, produttrice di olio, che dice che non si può vendere, non ci può essere un olio d'oliva extravergine sotto gli 8 euro? Sì, sì, beh, condivido, anche se secondo le nostre risultanze il prezzo orientativo, che deve essere indicativo anche per il consumatore, è intorno a 6 euro. Effettivamente condivido pienamente con l'eccellenza e la qualità del nostro prodotto, che segue che risponde ad antiche tradizioni e segue dei disciplinari, diciamo, più ferrei rispetto ad oli che provenienti anche da altri paesi europei, che hanno criteri di raccolta, criteri di sedimentazione e di molatura sostanzialmente diversi dai nostri, con abbattimenti di prezzi, insomma, ecco, di costi finali. Senta, colonnello, truffe sull'olio ne avete scoperte parecchie in questi ultimi anni? Truffe, purtroppo sì. Diciamo che quelle più ricorrenti e quelle che hanno una maggiore ricaduta economica per l'imprenditoria non sana è quella della trasformazione degli oli di semi con aggiunta, ad esempio, di coloranti quali il beta-carotene, perché possa sembrare olio vergine, olio extravergine addirittura. Negli ultimi tempi ho visto che, diciamo, che gli scandali maggiori sono verso il settore caseario, ma diciamo, cos'è? La crisi che porta a cercare di abbattere i costi in ogni maniera, oppure sicuramente è una tendenza di questo settore, diciamo, verso, non tutto il settore ovviamente, ma dico degli scandali che sono usciti di molti truffatori che ci sono in giro, che appunto rimettono sul mercato formaggi putrefatti, li rilavorano, li rimettono in vendita. Ma effettivamente sì, c'è una tendenza a incidere soprattutto a emulare falsamente, artatamente i prodotti di eccellenza italiani, che sono noti in tutto il mondo. Un prodotto agroalimentare italiano per antonomasia è sinonimo di qualità e di affidabilità, per cui l'imprenditoria non sana, l'imprenditoria che è dedita al malaffare, predilige i prodotti agroalimentari. Lei ha detto giustamente i prodotti caseari, ma io aggiungerei appunto l'olio, perché no il vino, i prosciutti, cioè tutto ciò che si identifica con questa nazione. E, per noi è molto importante il settore agroalimentare, non solo per la tutela del consumatore, che rimane la prioritaria preoccupazione professionale e istituzionale del NAS, ma anche la difesa e la tutela del prodotto di eccellenza e di conseguenza dell'imprenditore sano e dei lavoratori di settore. Bene, io la ringrazio del suo intervento, colonnello. Grazie anche per l'opera che state facendo. Negli ultimi tempi si vede con grandissima frequenza e professionalità. Grazie e a presto. Grazie a lei, una buona giornata. Bene, sentiamo Andrea da Padova, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per la possibilità di intervenire. Allora, io sono convinto che l'olio venduto a quel prezzo 3-4 euro è possibile perché diciamo, danno la possibilità di vendere olio considerato extravergine di oliva quando ha l'1% di olio veramente extravergine di oliva. Allora, questo qua è un problema che è accettato dal sistema, perché se ci fosse una legge che dicesse che per considerare un olio extravergine deve avere percentuali molto più alte, allora la cosa... Ma scusi, non si troverebbero più olio a 3-4 euro. È il sistema che accetta sta roba, è inutile che ci giriamo intorno... E che scusi Andrea, ma cos'è questo 1%? Non capisco cos'è l'1% di cui parla lei. Le bottiglie da 3 euro, da 3-4 sì, euro, sì, è considerato extravergine di oliva, sì, quando contiene una percentuale bassissima di olio realmente extravergine. Ma non sembra, il sistema lo accetta, ma... sta roba qua, è per questo che vendono l'olio a 3 euro, a 4 euro, è il sistema che bene, vuole sentiamo, sta roba qua. Sentiamo un esperto, Marco Reggia, mi sembra veramente di sognare, comunque sentiamo anche un parere più autorevole del mio. Marco, hai sentito? Sì, ho sentito innanzitutto la signora che giustamente ha fatto un appunto che secondo me è fondamentale. È indubbio che una forbice di mercato così è improponibile, ma è evidente che questo ascoltatore ultimo dice una cosa non vera, in certo. realtà, nel senso che l'olio è extravergine 100%, ovviamente. Poi che su questo ci sono delle truffe, che manca nell'esposizione del signore De Nas, che oggi la frase più forte non è l'olio di semi col verdone, ma il deodorato, che su questo potremmo, deodorato è un termine che si usa tecnico ovviamente, cioè l'olio praticamente di altre categorie viene deacidificato, ripulito dei difetti e quindi messo in commercio in maniera fraudolente, quindi su questo ci sono purtroppo dei grossi problemi nella riconoscibilità, pur essendoci già dei sistemi chimici per riconoscere il deodorato, ma ancora non riescono a passare a livello comunitario, a livello internazionale, e questo quindi si ricollega all'ultimo consumatore che diceva appunto dell'1%, che è sbagliato come concetto, certo. Nel senso che in realtà si sa che ahimè c'è una percentuale anche piuttosto ampia di deodorato con percentuali che sono ovviamente fraudolente più o meno di extravergine dentro, e non si sa realmente certo. come attualmente lo combattono a livello di normativa. Quindi diciamo che non è tutto sbagliato quello che ha detto l'ultimo consumatore, certo non con l'1%, ma sicuramente c'è ancora da lavorare sul fronte della repressione, c'è ancora da lavorare sul fronte delle normative, soprattutto per combattere delle frodi che sono sempre più sofisticate in senso ovviamente... Beh, forse bisogna combattere anche sull'importazione di olio di nocciola, probabilmente, che finisce... Sì, è una frode che ormai piano piano è abbastanza scemata, perché è vero che ha l'oleico molto alto e molto spesso miscelando si ha la difficoltà, ma dal punto di vista chimico ormai siamo andati veramente molto avanti nel confronto dei controlli, devo dire anche appunto i gruppi di repressione che sono Senasa, anche altri, sono sempre più specializzati, sempre più esperti anche dell'assaggio, e questo certo. mi congratulo, perché hanno fatto un grossissimo salto di qualità, ed è giusto che sia così, quindi c'è un primo appeal di impatto all'assaggio e poi il controllo chimico è fondamentale anche del gruppo delle repressioni, quindi c'è molto da lavorare sul fronte internazionale sulle frodi, speriamo che questa legge dell'origine sì. soprattutto su queste ci potrà un po' tutelare, forse c'è da appunto fare delle battaglie in sede comunitaria oltre che per l'origine, proprio per il deodorato, perché automaticamente secondo me tutti gli oli cosiddetti io definisco standard da imbottigliamento internazionale o nazionale probabilmente scenderebbero nella categoria merceologica reale, che è quella dei vergini di oliva, che non esiste in Italia questa categoria, o meglio esiste legalmente ma non esiste nel consumo, e quindi i produttori, quelli appunto come la signora diceva prima, che vende a 7-8 euro minimo e si recupera dei costi, andrebbero finalmente ad avere la loro fetta di mercato, che è quella dell'extravergine ottenuto da oli di fattoria Bene. Di alta qualità. Grazie Marco. Il gastronauta. E ancora olio, cari amici. Bene, vediamo il numero verde 800 24 00 24, chi volesse intervenire. Sentiamo Giulio dalla provincia di Catanzaro. Buongiorno Giulio. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Sono un po' emozionato perché non sono abituato. Bene, volevo comunque dire. È da anni che qua il prezzo è bassissimo. L'ultima volta, non so, 4-5 anni fa, arrivata a 4 euro e poi è ribassato, adesso è meno di 200 euro a quintale l'olio, e che sia sempre insomma sotto il grado, e il commerciante, che poi è unico diciamo che viene dalla Puglia che compra l'olio, non lo vuole nemmeno, vorrebbe più olio lampante che olio extravergine. Giulio, quella domanda cos'è? Cosa bisogna fare? Questo è il punto, mi sembra di capire. Cosa bisogna fare? Bene. Perché allora, è aumentato tutto, bene. Il rame, tutto. Sentiamo un grandissimo esperto del settore, che è Flavio Zaramella, presidente della Corporazione dei Maestri Oleari. Buongiorno Flavio. Buongiorno dottor Paolini. Cosa bisogna fare allora? Bisognerebbe che il ministro Zaia, che già ha ottenuto una brillante vittoria per la questione di rendere obbligatoria l'origine nazionale del prodotto, intensifichi la sua azione per, come già ha detto e accennato l'amico Reggia, prevedere di modificare le normative chimiche, perché determinati prassi illegali, quindi che non garantiscano la qualità del prodotto purtroppo oggi sono legali, in quanto le attuali normative dell'Unione Europea, per esempio, di fatto accettano il discorso della deodorazione. Lo Infatti può dimostrare sì. quando vuole, dottor Paolini. Sì, ma infatti è un problema di normative. È un tema che è venuto fuori sicuramente di normativa. Rimani con noi, Flavio, sentiamo Gianluca da Roma. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a tutti. Salve, io volevo porre l'attenzione sul fatto, immagino che la gran parte dell'olio commerciato venga distribuito da strutture organizzate quali la grande distribuzione, perché se è vero quello che ha detto il ministro prima, il 70% dell'agricoltura gira su grande distribuzione, penso la percentuale sia assimilabile. E la grande distribuzione propone oli in volantini, in operazioni commerciali, anche a meno dei prezzi 3-4 euro di cui stiamo parlando. Su volantini si trova un litro d'olio extravergine anche a 1,99. Quindi un primo controllo, anche etico, dico, non potrebbe essere fatto dal distributore, che in questo caso non è la classica, diciamo, suora, ma insomma il piccolo negozietto, ma certo, gente che dovrebbe preservare appunto la qualità delle cose che... Bene, abbiamo capito esattamente, abbiamo anche sentito da il colonnello Amoroso qual è il limite inferiore sotto il quale è difficile che sia olio extravergine, ma sentiamo cosa ne pensa Ranieri Filo della Torre, direttore dell'Unaprol, Consorzio Olivicolo Italiano. Buongiorno Ranieri. Buongiorno a tutti, sono perfettamente d'accordo con il produttore Giulio che ha parlato prima dalla Calabria. Abbiamo un momento di prezzi assolutamente ridicoli, bassissimi, ma noi ci stiamo adesso, credo, attivando molto per quanto riguarda l'applicazione dal 1 luglio di questo nuovo regolamento comunitario sull'etichettatura, che sarà già un grande motivo di trasparenza del mercato, perché darà più sicurezza e più garanzia al consumatore per gli acquisti che farà. E l'altra questione, naturalmente, devono aumentare i controlli, perché molto del prodotto, e come diceva Gianluca, va in grande distribuzione, in moltissimi casi non è nemmeno olio extravergine, tanto che ci sono oli lampanti, come ci ricordava appunto il primo produttore Giulio, che poi improvvisamente diventano oli extravergini venduti al supermercato a meno di 2 euro. Bene, grazie, rimanga con noi. Sentiamo Massimo da Trento. Buongiorno Massimo. Sì, buongiorno Paolini. Niente, io volevo parlare, forse sarà un annetto fa, avevano fatto una puntata di Report su Rai 3, proprio che parlavano esclusivamente dell'olio d'oliva. Sì. Lì ce ne sono viste di cose da pelle d'oca, ma io quello che ricordo, e lo ricordo bene, erano questi due operai in una grande fabbrica che non diciamo né nome né cognome, che dicevano e si vantavano del fatto di aver detto all'intervistatore di mettere un 15% di olio extravergine, e ridevano alle spalle di questo fatto perché era una bufola immensa. E poi volevo dire che questo, portando l'olio in laboratorio, si riesce a risalire dalla A alla Z di cosa è composto l'olio. Per cui, se la volontà politica è quella di tutelare noi consumatori, basta che legiferano questo campo, diciamo, no? Bene, ho capito esattamente la domanda. Io le potrei rispondere con una battuta, ma poi faccio rispondere a Zanamella, che molte volte nel settore dell'olio ho sentito dei produttori che mi dicevano che i truffatori sono sempre più avanti della ricerca. Flavio Zanamella, tu cosa ne pensi? Innanzitutto il discorso oggi riguarda più che altro il lavoro che sta facendo il Ministero e soprattutto coadiuvato da l'Unaprol. In diretta c'è anche l'amico Ranieri Filo La Torre. Perché? Perché il discorso vero, mancando oggi delle possibilità analitiche per definire e controllare l'origine del prodotto, quindi il discorso verte tutto sulla tracciabilità del prodotto, quindi sui controlli, sui registri di carico e scarico. Questo è il dato dell'arte. Per cui lo sforzo che stanno facendo i produttori olivicoli, non solo di garantire la tracciabilità e l'origine nazionale, ma addirittura si sta portando avanti un discorso di certificare il prodotto italiano di alta qualità, quindi segmentando ulteriormente il livello qualitativo dei prodotti, questa è l'unica vera strada maestra per portare il nostro prodotto a essere riconosciuto come veramente, stiamo parlando di grandi numeri, il migliore del mondo, e quindi essere in grado di retribuire i prodotti in base al rapporto prezzo-qualità. In questo momento vengono premiati in buona parte i prodotti di bassissima qualità e spesso e volentieri anche le aziende truffaldine, mentre i buoni produttori sono marginalizzati e stanno continuando a lavorare solo per pura passione. Quindi il dato vero, lo ripeto, è che questo lavoro che si sta facendo in maniera sistematica darà i suoi frutti, speriamo. Trovare nei confronti dei regolamenti europei delle modifiche. Bene. Quando io ripeto che quando la sofisticazione dell'olio è legalizzata con delle vere e proprie leggi, quindi il discorso diventa quello di un'ulteriore lotta alle leggi stesse, insomma, per ottenere dall'Unione Europea maggiori non solo le garanzie sull'origine, ma delle garanzie sulla genuinità del prodotto. Bene, grazie Flavio, perché ho pochissimi secondi ancora. Grazie, abbiamo capito. Volevo sapere se Ranieri, Filo della Torre, proprio un minuto, è d'accordo con quello che stava dicendo Zaramella. Sì, siamo molto d'accordo, sempre in sintonia con Flavio, che è una persona straordinaria. Serve più cultura dell'olio, servono più controlli e serve soprattutto riuscire ad arrivare con un prodotto di alta qualità che, come produttori, come olivicoltori italiani, stiamo cercando di darci anche con la tracciabilità e con questi programmi di miglioramento della qualità, perché il nostro sistema deve rimanere sempre quello di eccellenza e quello più straordinario a livello mondiale. Va bene, grazie Ranieri. Bene, abbiamo sentito un po' tutte le campane. Comunque la speranza che dal 1° luglio qualcosa possa cambiare in meglio, che si possa acquistare una bottiglia con su scritto olio italiano e con una filiera garantita possa veramente avverarsi, perché l'olio è un prodotto talmente importante per la nostra tavola e per la salute un po' di tutti, che sicuramente deve essere controllato e deve essere valorizzato. Così pure devono essere valorizzati i piccoli produttori, che oggi appunto abbiamo sentito hanno una retribuzione sul prodotto davvero molto ma molto bassa. Io vorrei ricordare comunque, secondo me è un fatto molto importante del colonnello Amoruso, quando ha ricordato una cifra, la cifra bassa sotto la quale un po' pericoloso andare, dei 6 euro, quindi per un olio d'oliva extravergine made in Italy di cui è garantita la filiera. Quindi credo che questo sia un consiglio davvero molto molto importante per tutti i consumatori. Bene, io chiudiamo questa trasmissione sull'olio e purtroppo sulle truffe. Magari varrebbe sempre la pena di parlare di cose molto più positive, però credo che sia doveroso parlare anche di questo. Sono stati nominati pesticidi, perché no? Il vostro gastronauta oggi vi saluta, vi dà appuntamento ogni giorno con la pillola alle 18:30 e adesso continua il riposo del guerriero.